Allora, direi di iniziare subito. Le fonti di oggi, che si basano su un saggio di Marco Guastavigna, ci portano in un territorio che, insomma, conosciamo tutti: la scuola. Ma la prospettiva è, beh, tutt'altro che familiare. Decisamente. Il tema centrale è una critica molto forte a come la tecnologia, e in particolare quello che viene definito capitalismo di piattaforma, stia trasformando l'istruzione in un vero campo di battaglia. Esatto. Il nostro obiettivo oggi è capire cosa sia questa colonizzazione digitale e soprattutto vedere se ci sono delle alternative concrete. È un punto di partenza, potentissimo. Le fonti ci dicono che la scuola non è più solo un luogo di formazione, dobbiamo vederla come una data mine. Una miniera di dati. Proprio così. Una miniera di dati. Ogni singola interazione di studenti e docenti, un click, il tempo di risposta a un quiz, una chat, tutto viene catturato. Trasformato in materia prima. Esatto. Tracce di comportamento, livelli di attenzione, persino le reazioni emotive diventano dati. Dati preziosissimi che vengono estratti e ovviamente monetizzati da enormi oligopoli tecnologici. Quindi il punto non è avere un tablet in classe o il registro elettronico. Qui si va molto più a fondo. Molto di più. Una delle fonti la chiama addirittura una guerra di classe nel codice. È un'immagine forte. Eh sì, praticamente ci sta dicendo che chi progetta gli algoritmi, le piattaforme, sta di fatto decidendo che tipo di società e che tipo di persone diventeremo. Allora proviamo a smontarlo, pezzo per pezzo, questo meccanismo. Va bene. Il saggio parla di colonizzazione. E la descrive su tre livelli: epistemico, economico e politico. È un'accusa pesante. Molto. Proviamo a renderla concreta. Partiamo dal primo, quello epistemico. Che significa che il nostro modo di conoscere viene colonizzato? Certo, allora, sul piano epistemico, le fonti sostengono che la natura stessa del sapere sta cambiando. In che modo? L'apprendimento non è più un percorso di crescita critico, a volte anche imprevedibile. Diventa un output, un risultato standard, prevedibile. Misurabile. Esatto. Viene ridotto a tracce digitali misurabili. E qui arriva il punto. Gli algoritmi iniziano a suggerirti cosa imparare, come impararlo, anticipando i bisogni e di fatto omologando i percorsi. Il testo usa due parole molto forti. La conoscenza viene disincarnata e depolitizzata. Ok, fermiamoci un attimo qui. Disincarnata, che vuol dire? Che si toglie l'apprendimento dall'aula, dalle mani alzate, dagli sguardi, e lo si trasforma in un dato freddo su una dashboard. Esattamente questo. Viene separata dai corpi, dalle storie, dalle emozioni di una classe. E depolitizzata significa che viene presentata come neutra, oggettiva. Proprio Come se non ci fossero interpretazioni diverse. così. Separata dai conflitti, dalle diverse visioni del mondo. La storia, per dire, diventa una sequenza di date, non un campo di battaglia di interpretazioni. E questo mi porta dritto al piano economico. Hai detto prima che queste piattaforme spesso sono offerte gratuitamente, no? Sì, a scuole con budget ridotti. Ma gratis nel mondo tech è una parola che mi fa sempre, insomma, mi mette in allarme. Qual è la vera moneta di scambio? La vera moneta sono i nostri dati, la nostra attenzione e soprattutto la nostra dipendenza. La scuola diventa un mercato prigioniero per la tecnologia educativa. Ma c'è di più. Cioè. Diventa un gigantesco laboratorio, un luogo dove testare su milioni di studenti e insegnanti nuovi algoritmi di previsione e di controllo del comportamento, il tutto mascherato da innovazione didattica. Un laboratorio. È un'immagine, inquietante. E ci porta al terzo livello, quello politico. Se cambia il modo in cui impariamo, cambiamo anche noi. Chi diventiamo? E qui l'analisi si fa davvero radicale. Si sostiene che venga prodotta una nuova forma di soggettività. Un nuovo tipo di persona. Sì, lo studente si trasforma in uno student worker, un lavoratore studente che imparando in realtà produce dati. E il docente diventa un docente entrepreneur. Un imprenditore di se stesso? Esatto, che deve costantemente ottimizzare le sue performance su un pannello di controllo. Mi viene in mente un'amica insegnante. Mi diceva che passava più tempo ad aumentare le metriche di engagement online che a preparare le lezioni di storia. Si sentiva più una social media manager che un'educatrice. Incredibile! Quindi l'insegnante è un operatore di dashboard che guarda dei grafici e lo studente è un profilo da ottimizzare. L'intera relazione educativa, che si basa sull'empatia, sul dialogo, viene ridotta a un flusso di dati tra utenti. Si perde tutta la complessità. Proprio così. Le fonti usano un'espressione tecnica, ma secondo me potentissima. Accumulazione per espropriazione cognitiva. Ok, accumulazione per espropriazione cognitiva. Sembra complicatissima. Proviamo a scomporla. Certo. È come dire che l'intelligenza collettiva di migliaia di insegnanti, l'esperienza di decenni, viene presa, impacchettata e venduta da un'azienda come se fosse petrolio, come se fosse una loro proprietà. È la metafora perfetta. È una logica da rapina, puramente estrattiva. Si appropria di un bene comune, l'intelligenza della comunità educante, per generare profitto privato. E così, come dicevi tu, ci rende tutti più simili, più standardizzati. Più facili da controllare. È il cuore del contrasto al capitalismo del controllo e della standardizzazione. Esatto. Questa critica è spietata. E qui la cosa si fa, se possibile, ancora più interessante. L'autore del saggio, Marco Guastavigna, si definisce un ricercatore inopportuno. Sì. Dice di poter parlare così liberamente perché è in pensione. Non è solo un dettaglio anagrafico, vero? No, no, è il fulcro del suo ragionamento. Lui sostiene che la pensione lo ha liberato, diciamo, dalle catene del mercato del sapere. Cioè non è più schiavo della valutazione, della corsa ai finanziamenti? Esatto. Niente più sindrome del pubblica o muori che avvelena l'accademia. La sua voce, come scrive lui, non dovendo più chiedere permesso, può permettersi l'insostenibile lusso della verità. È un paradosso affascinante. Il sistema ti considera improduttivo, un peso, e così facendo ti regala l'unica cosa che non può controllare: la libertà di dire la verità. È quasi un superpotere, sì. Il testo ribalta completamente questa visione. Quella che per il neoliberismo è inutilità diventa la premessa per una rinascita del pensiero critico. Interessante. Conquista del tempo. La ricerca può seguire i ritmi lenti della riflessione, non le scadenze dei bandi. Questa lentezza non è inefficienza, ma un ritmo epistemico necessario per vedere le strutture profonde. Quindi la sua condizione personale diventa una specie di lente di ingrandimento per analizzare le costrizioni di tutto il sistema. Sistema che viene descritto come un dispositivo di autocensura strutturale. Proprio così. In pratica, chi è dentro è costretto a scegliere argomenti sicuri, a non disturbare i finanziatori. La sua quindi non è una fuga, ma un tentativo di aprire uno spazio di dibattito da una posizione diversa, da outsider. E questo solleva una questione importante. L'autonomia del pensionato non è una soluzione individuale. Sarebbe un discorso elitario. Certo. È piuttosto un'eccezione che svela la regola. Diventa un punto d'osservazione che mostra le catene che legano tutti gli altri. E infatti l'obiettivo politico delle fonti è proprio questo: trasformare l'eccezione individuale in una strategia collettiva per chi è ancora dentro. Perfetto. Abbiamo visto la diagnosi, la pars destruens e la posizione da cui nasce. Ora arriva la parte più difficile. Dopo aver demolito tutto, qual è la via d'uscita? Un ritorno nostalgico alla lavagna e ai gessetti? Assolutamente no. Sarebbe troppo facile. La proposta non è per niente nostalgica, anzi, è molto tecnologica, costruttiva. Si basa su un'idea chiave, il mutualismo cognitivo. Mutualismo cognitivo? Sì. L'obiettivo non è rifiutare la tecnologia, ma riappropriarsene. Creare spazi di cooperazione dove la conoscenza è un bene comune e la tecnologia è uno strumento di liberazione, non di controllo. E come si fa in pratica? Perché spesso queste critiche restano molto astratte. Riappropriamoci della tecnologia è un bello slogan, ma che vuol dire per una scuola con pochi soldi? E qui le fonti sono sorprendentemente concrete. Ah, bene! È l'aspetto più affascinante. Il testo delinea una strategia precisa, basata su quattro pilastri, con esempi reali e dati misurabili. Il primo è la sovranità tecnologica. Ok. Significa adottare software libero e autogestito, tipo Moodle o Nextcloud, su server propri e hardware open source. Viene citato l'esempio delle scuole di Tarragona, in Catalogna. E che hanno fatto? Adottando questo approccio, hanno ridotto i costi del 38% e, cosa ancora più importante, hanno aumentato la personalizzazione didattica. Un 38% in meno è una cifra enorme per una scuola pubblica. Ma in pratica questo cosa ha significato? Hanno potuto assumere un insegnante in più? Comprare libri? E gli insegnanti? Come hanno reagito? Le fonti non entrano in questo dettaglio, ma implicano proprio questo. Le risorse liberate si reinvestono nell'educazione vera, non in licenze. E sì, il feedback è di un maggiore controllo sui propri strumenti. E questo ci lega al secondo pilastro, la governance partecipata. Cioè? L'idea è creare assemblee di sapere, con docenti, studenti, genitori, che decidono insieme, democraticamente, quali tecnologie usare e perché. Si menziona l'esperienza della rete Mutua Scuola in Lombardia. E i risultati? Aumento del senso di autoefficacia degli studenti e riduzione dell'abbandono scolastico. Queste assemblee diventino degli incubi burocratici in cui non si decide mai nulla. È un'obiezione legittima. Le fonti non negano la complessità, ma la presentano come il costo necessario della democrazia. È il prezzo da pagare per non subire decisioni prese a migliaia di chilometri di distanza. Capisco. Il terzo pilastro riguarda i contenuti, la circolazione non proprietaria dei saperi. La proposta è semplice. Tutti i materiali didattici prodotti con fondi pubblici dovrebbero essere rilasciati con licenze copyleft didattico, come le Creative Commons. Quindi chiunque può usarli, modificarli e condividerli. Esattamente. L'Università di Palermo, con il suo progetto Open Educational Commons, ha generato un risparmio stimato di 1,2 milioni di euro in licenze per le scuole siciliane. È un cambio di paradigma totale, dal sapere come proprietà privata al sapere come bene comune. Manca l'ultimo punto. L'ultimo è forse il più audace, la ridistribuzione del valore. Visto che le piattaforme estraggono un valore enorme dai nostri dati, si propone una tassa sull'estrattivismo dei dati. Una tassa sulle grandi corporation tecnologiche. Una vera e propria imposta sui loro fatturati. E il ricavato andrebbe a finanziare un fondo di mutua istruzione, gestito direttamente dalle comunità scolastiche per i loro progetti. Wow! Questa è un'idea radicale. Quindi non solo si regola Big Tech, ma si tassa il loro modello di business e si usano quei soldi per finanziare l'alternativa. Esatto. È una mossa coraggiosa. Però tutto questo software autogestito, assemblee, tasse, suona come una battaglia incredibilmente difficile. Queste scuole si troverebbero a competere con colossi che offrono prodotti scintillanti, facilissimi da usare. Le fonti riconoscono quanto sia difficile. Assolutamente. Nessuno nega che sia una battaglia in salita. Ma l'argomento è che la strada facile delle piattaforme ha un costo nascosto altissimo. La perdita di autonomia, di pensiero critico, la standardizzazione. E gli esempi pratici? Gli esempi come la Scuola Mutua a Roma o Open Source Scuola in Valsusa sono la prova che un'alternativa è possibile. Non si tratta di rifiutare il comando e basta, ma di costruire attivamente le istituzioni che rendono questo rifiuto sostenibile. Bene, quindi per riassumere. Siamo partiti dalla scuola come campo di battaglia, colonizzata da un capitalismo che trasforma il sapere in dati per standardizzare le persone. Esatto. Abbiamo visto come una posizione inopportuna, libera dal mercato, permetta una critica profonda. E infine abbiamo esplorato una mappa dettagliata e pratica per costruire un'alternativa. Il punto centrale che emerge, secondo me, è che la tecnologia non è mai neutrale. È sempre un terreno di lotta politica. Le proposte che abbiamo analizzato non sono un'utopia, ma un invito concreto a riappropriarsi materialmente degli strumenti del sapere. E l'obiettivo finale? Trasformare la scuola. Da macchina di adattamento al presente che produce individui standardizzati e competitivi, al laboratorio per immaginare e costruire un futuro diverso. E questo ci lascia con un'ultima domanda, un pensiero. Se l'educazione è davvero il terreno su cui si gioca il nostro futuro, le fonti di oggi ci spingono a chiederci, nella nostra vita di tutti i giorni, come studenti, insegnanti, genitori, quale piccola, concreta pratica di insubordinazione digitale possiamo mettere in atto? Quale gesto, anche piccolo, possiamo compiere per smettere di essere solo utenti passivi e iniziare a costruire pezzo dopo pezzo un nostro bene comune?